Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Difficile decidere da che parte cominciare oggi, magari da questi due minuti di ritardo che ormai stanno diventando cronici. D'altra parte, il ritardo accumulato dall'Italia nel mettere insieme una squadra competitiva mi sembra sia stato anche superiore. Magari una battuta. Lorenzo scrive da Montepulciano, tra i tanti sms che già hanno preceduto l'inizio della trasmissione: secondo me l'Italia si è venduta la partita, scrive Lorenzo. Vedrete che il prossimo anno due o tre dei nostri migliori giocheranno in Slovacchia. Oppure qualche analisi seria. Questa mi è piaciuta in particolare, l'editoriale di oggi lo firma un ascoltatore, Alessandro Meiattini, che scrive: ho sempre pensato che le parole che si scelgono rivelano molto di noi, per questo non mi erano mai piaciuti quelli che chiamavano eroi di Berlino i giocatori di 4 anni fa, e ora non sopporto quelli che gridano vergogna e cose anche peggiori ai protagonisti di questo pessimo mondiale. In queste opposte reazioni e in altre parole che spesso le accompagnano, onore, patria e umiliazione, ci sono troppe cose che mi ricordano il fascismo. Questi ragazzi non erano eroi 4 anni fa e non sono buffoni oggi, sono solo più scarsi e molto meno in forma. E questa mi pare una grande verità. Roberto Cazzariga, un'altra mail, le contiamo a centinaia quelle di stamane. Sono come me tutti deluso dagli azzurri, ma mi chiedo perché noi italiani stiamo usando con così tanta generosità la parola vergogna. Siamo un paese che ha tanti altri motivi per vergognarsi, ma Lippi e i suoi sono stati semplicemente scarsi. Vergogna e scandalo sono termini che terrei per cose più importanti. Ne seguiranno altri di questi messaggi. C'è stata, dopo l'assunzione di responsabilità di Lippi nell'immediato dopo partita di ieri, c'è stato stamane quello del presidente federale Abete. Sentiamo. Abbiamo il dovere di ripartire, perché la tristezza o comunque l'amarezza è un fatto soggettivo. Il dovere di ripartire è un obbligo da parte della federazione, dell'intero movimento calcistico italiano. Questo dovere richiede naturalmente assunzione di responsabilità, condivisione di responsabilità, da qui la riflessione anche di politica sportiva che faremo in occasione del Consiglio federale. E come ho detto, si riparte perché al di là del risultato fortemente negativo abbiamo questo dovere e intendiamo perseguirlo fino in fondo nella logica di responsabilità che compete alla federazione. Il capo di imputazione, chiamiamolo così, principale nei confronti della federazione, in particolare del suo presidente Abete, è quello del ripescaggio di Lippi. È inutile girarci intorno, e cioè altri al suo posto nel 2006, in situazione di emergenza che forse si ricorderà, avevano scelto, dopo le dimissioni di Lippi, assolutamente volontari, avevano scelto un'altra strada di rinnovamento, giusto o sbagliata che fosse. Abete, non appena è stato nominato presidente federale, ha deciso invece di cambiare, ma di cambiare non innovando, ma tornando indietro. Sentiamo questo passaggio di conferenza stampa in cui ricostruisce quel momento e risponde soprattutto a questo genere di critiche. Ho fatto una scelta che è quella di Marcello Lippi, una scelta che non rinnego, nel senso che non, come ho detto prima, non ho motivo di rinnegare la scelta a fronte di una situazione di individuare il tecnico per la nazionale dopo gli europei, prendere di nuovo il tecnico che ci ha fatto vincere un mondiale tra 10 anni e 20 anni, ma non è quel discorso di oggi, prevarrà come prevale nei confronti di tante altre persone la gratitudine anche per quello che si è dato, oltre che ovviamente la critica legittima per le occasioni perse e per gli insuccessi come quello di questo mondiale. Quindi la scelta di assumere il tecnico è una scelta completamente mia e quindi me ne assumo la responsabilità. E questo era Abete. Sto leggendo un messaggio molto divertente. Per capirlo bene, però, prima bisognerebbe sentire Cannavaro. Vediamo se questo passaggio, perché stamane, dopo Abete, si è presentato giustamente, ci ha messo la faccia anche il capitano Cannavaro dopo le tante lacrime di ieri. Sentiamo se questo passaggio a cui si riferisce questa battuta un ascoltatore c'è o meno. Cannavaro. Soprattutto dopo la prima partita, come ho detto in questi giorni, ero fiducioso, perché comunque il mondiale è una manifestazione a parte, quello che fai prima non conta. Siamo venuti qui, abbiamo fatto una buona partita, forse il fatto di non aver vinto la seconda ci ha condizionato molto. E ieri, soprattutto nel primo tempo, è lo specchio c'era insicurezza, c'era paura, c'era troppa responsabilità. La differenza tra noi e loro era proprio che noi dovevamo vincere a tutti i costi e loro potevano giocare tranquillamente pur dovendo vincere a tutti i costi, però era proprio una questione di serenità. No, la chicca qua non c'era. Proviamo nell'altro file di Cannavaro, in cui si parla di certe scelte che Lippi ha fatto. Sicuramente i nomi sono di Antonio Cassano e di Balotelli, sono quelli che tutti un po', no? Io, con tutto il bene che gli voglio Antonio, abbiamo fatto due europei e non li abbiamo vinti. Balotelli è un giovane interessante, però deve ancora dimostrare. Io penso che il mister abbia portato quelli che gli potevano garantire qualcosa in più in un mondiale. Purtroppo è andata male, sono state fatte quelle scelte e le scelte non hanno ripagato come nel 2006, ma penso che comunque il mister abbia fatto il suo lavoro come ha fatto nel 2006. Purtroppo a volte le cose vanno bene e a volte vanno male. Questo è ampiamente condivisibile, ma non era nemmeno qui questo frammento che vi leggo invece dall'ANSA. Cannavaro, dobbiamo tutti voltare pagina. Se restiamo a questo punto, ci mettiamo altri 26 anni a vincere un mondiale e l'Italia non può permetterselo. Allora, Davide da Verona mi fa notare, manco i conti sanno fare questi, perché 26 è un numero che non esiste, cioè o sono 24 o sono 28, essendo i mondiali ogni 4 anni. Non è male, grazie Davide. Avviso per i naviganti: i vostri interventi, le vostre telefonate subito dopo, non questo intervallo ma il successivo. Adesso prima ci colleghiamo col Sudafrica e andiamo avanti con novità, aggiornamenti, perché poi il mondiale, così come la vita, continua e ci mancherebbe altro. E dopo le 14:30 la valanga dei vostri interventi, che sono già iniziati nel pomeriggio di ieri e sono continuati nella serata, e chissà per quanto altro tempo andranno avanti ancora. Torniamo in onda e siamo già collegati con lo studio centrale di Sky Sport 24 a Johannesburg. Buongiorno Fabio Tavelli. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Ho letto stamane nella tua rubrica sul giornale di Brescia, ho letto quella molto carina della signora inglese di mezza età col pass della BBC, che fa una domanda perfetta per un incompetente. D'altra parte lei, se ho letto bene, era probabilmente un'impiegata, un'addetta, non certamente nel senso di addetta ai lavori, ma un'addetta a qualche mansione. E ti ha chiesto, se non ho letto male, dice, vedendo i giocatori dell'Italia, dice: ma quelli dell'Inter dove sono? Ecco, io credo che nell'ingenuità di questa domanda ci sia in realtà una buona parte della spiegazione del fallimento di ieri. Guarda Gigi, io l'ho messa nella prima riga perché l'ho trovata sensazionale, nel senso che è veramente la domanda più spontanea e più logica è che viene a una persona che non fa il nostro mestiere. Certo. È chiaro che è venuta anche a noi ovviamente questa riflessione, però detta così, con l'ingenuità di chi è qui al mondiale per occuparsi d'altro, magari semplicemente per organizzare le trasferte degli inviati o per organizzare i trasferimenti in pullman o con la navetta, questa signora ha guardato la formazione e ha detto: ma dove sono quelli dell'Inter? Io avevo in mano la start list e gliel'ho fatta vedere, e non solo lei ha osservato questa cosa, ma poi non l'ho scritto, ma ho voluto anche andare oltre, e le ho fatto leggere i nomi dei giocatori abbinati alla squadra di club. Insomma, questa signora si stupiva che ci fossero in campo giocatori del Cagliari, del Genoa, dell'Udinese e quant'altro, e mi ha detto: ma insomma, noi non abbiamo molti giocatori del West Ham, piuttosto bene, in realtà magari del West Ham ce n'è uno, però insomma, sì. Di squadre, cioè se l'ossatura forte della squadra è data da una squadra di club che è arrivata settima in campionato, se la coppia d'attacco è formata per due terzi da giocatori che fanno parte della quintultima, sest'ultima squadra del campionato, o noi abbiamo un campionato pazzesco e quindi possiamo permetterci di far rappresentare in nazionale anche squadre che non sono andate bene nella stagione, oppure, ma la verità, certo, in questo caso è questa, c'è un problema, e c'è un problema grosso. C'è un problema grosso? Devo dirti che... No, ed è un problema, Fabio, che così per andare avanti e magari concludere temporaneamente, anche perché poi durerà chissà quanto questo dibattito, perché è il vero dibattito di un futuro se lo si vuole costruire, purtroppo causa leggi UE e legge Bosman non si può più fare come si faceva dopo questi disastri nazionali qua negli anni 50, 60 e ancora 70, e cioè chiudiamo le frontiere. Non potendosi più fare questo, o si riesce a, come dire, a inculcare, no, in tutte le società, anche quello di primissimo livello, il concetto che non è un obbligo, ma insomma sarebbe gradito, no, che ogni tanto arrivasse qualche giocatore di vivaio, in una società globale, evidentemente, quale nel resto dell'Europa civile già siamo avanti e qua un tantinello meno, oppure penso proprio che non si andrà da nessuna parte. Fabio, però il mondiale continua, ed è inutile nascondersi che per Sky è una discreta mazzata, non solo per Sky, per tutti i media evidentemente, ma qui si ripropone aggravata la situazione del 2002, cioè quella in cui ci sono enormi investimenti su un evento che l'eliminazione dell'Italia purtroppo affloscia. Ma guarda, due cose. Io nel 2002 lavoravo per Radio 24, certo. E ricordo ancora una telefonata del direttore dopo i supplementari persi contro la Corea, il quale un'estrema cordialità mi disse che il mondiale era finito, e quindi il giorno dopo sarei tornato a casa. Nel 2002 c'era solo la Rai e già quella riflessione la fece. Nel 2006 è arrivata anche Sky e insieme alla Rai. Io insomma faccio anche fatica a parlare di queste cose, però credo che da un punto di vista complessivo sia penalizzante sia per noi che per la Rai, ma se devo sceglierne una che viene più penalizzata, credo che siano quelli della Rai, credo sia la Rai, perché la Rai quando c'è la nazionale prende colpi da 20 milioni e passa di, certo, di spettatori, e questi li ha certamente persi. Loro non hanno tutte le partite mentre noi le abbiamo tutte, e soprattutto noi offriamo, cioè continuiamo a trasmettere e a far vedere giocatori che i nostri abbonati conoscono, perché trasmettiamo tutti i campionati stranieri, quindi cioè non voglio andare avanti oltre. No, ma questo mi sembra chiaro. Hai risposto pienamente, ma d'altra parte io sostengo da sempre che la partecipazione, la presenza dell'Italia in un campionato del mondo è un valore aggiunto. Ma aggiunto, per l'appunto, il valore vero è il mondiale e la bellezza di un mondiale nelle sue varie fasi. Per esempio questa è una fase, e magari arriviamo a questo discorso adesso, questa è una fase di transizione ancora in cui, aspettando la selezione vera che arriverà, beh, una prima selezione è già stata fatta, e il fatto di vedere Giappone, Corea del Sud, la stessa Slovacchia, gli Stati Uniti che avanzano e lasciano dietro di sé le scorie di, anche se è spiacevole dirlo, le scorie di Italia, di Francia e prossimamente su questi schermi magari anche d'Inghilterra, hai visto mai la Spagna stasera, deve comunque giocare una gran partita per non incasare a sua volta, beh, comunque un suo fascino ce l'ha. No, un fascino forte. Io credo che è ovvio che un tifoso neutrale non può preferire la Slovacchia all'Italia, però dobbiamo prendere atto di questo. Intanto che l'Europa rischia tantissimo, perché l'Europa ha promosso per il momento 4 squadre agli ottavi, ma si incontreranno tutte, cioè ci sarà la sfida tra Olanda e Slovacchia e la sfida tra Germania e Inghilterra, quindi già due l'Europa le perderà. Certo. Non è detto che passi la Spagna, io me lo auguro, io onestamente, se non me ne vogliano gli amici tifosi della Svizzera, però mi piacerebbe passassero stasera Cile e Spagna, quindi l'Honduras deve fare una grande partita contro la Svizzera. Perdere Spagna o Cile, perdere la Spagna è evidente perché parliamo dei campioni d'Europa, ma anche perdere il Cile ha giocato benissimo, io trovo che davvero il Cile debba andare agli ottavi di finale, quindi farò un forte tifo per l'Honduras questa sera. E comunque sia, cioè Giappone e Corea del Sud già nel 2002 erano andate agli ottavi di finale, poi la Corea era addirittura andata avantissimo, anche un pochino aiutata. E è un mondiale dove mi sembra gli arbitraggi siano abbastanza onesti, dove le partite siano tutte vere, di fatto molte partite, anzi credo l'80% delle partite del terzo turno erano già quasi degli ottavi di finale, perché comunque erano da dentro fuori. Poi la concatenazione di risultati ha portato anche a casi dove venivano promosse tutte e due, vedi Germania-Ghana l'altra sera, ma per dabbenaggine dei serbi. Stasera Spagna-Cile è onestamente un dentro fuori. Credo che invece Brasile-Portogallo sia una partita abbastanza accademica, non credo che la Costa d'Avorio possa dare, non so, 10 o 12 gol alla Corea del Nord per mettere a posto la differenza reti. Comunque sia, io trovo veramente che sia un mondiale molto affascinante nel suo equilibrio, cioè un mondiale che butta fuori a calci, usiamo questa immagine forte, che sì, prende a pedate le due finaliste dell'edizione precedente, nella quale onestamente le due prima e seconda non possono attaccarsi a niente, perché hanno giocato male e quindi è giusto che vadano fuori. E trovo che sia già un mondiale sufficiente, cioè il 6 secondo me questo mondiale l'ha già preso, adesso può prendere anche il 7 o l'8. Peccato il 2 che ha incassato l'Italia. Ovvio, però qui dobbiamo fare un discorso generale. Io dal 2 al 3 tento di astrarre sempre evidente. Il tifo e tutto il resto. È evidente, dal 2 al 3 per incoraggiamento. Ho detto Flavio Suardi perché oggi oltre al resto ha firmato anche un interessante articolo sul Sole in cui ha fatto due conti, gli hanno chiesto due conti e lui ha scritto che questi 3 gol ieri della Slovacchia costano alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, mi raccomando la U, 50 milioni di euro. Che è il salasso di sponsorizzazione e di premi. 50 milioni di euro sono una cifra che si proietta, no? Si riverbera in maniera abbastanza sinistra sul futuro immediato del calcio italiano, nel senso che non solo bisognerà rifondare il movimento, non solo bisognerà guardare avanti magari con qualcosa di più costruttivo e soprattutto di più deciso rispetto al passato più o meno recente, ma bisognerà farlo anche con risorse di gran lunga inferiori a quelle degli ultimi tempi. Fabio, noi continuiamo. Posso dirti però una cosa, e magari anche con uomini nuovi, perché io ho sentito oggi il presidente federale Abete dire dobbiamo avviare una profonda riflessione sul nostro calcio. Ma cosa avvii? Se tu la riflessione la dovevi avviare 4 anni fa quando l'hai vinto il mondiale, dovevi chiederti come hai fatto a vincerlo e se eri davvero convinto di essere in quel momento la nazione più forte del mondo. Cioè le federazioni intelligenti sono quelle che la riflessione la avviano dopo le vittorie, non dopo le sconfitte. Dopo le sconfitte sono capaci tutti. Pensa agli americani tutti a dire gli americani hanno fatto il mondiale del 94 e non sono riusciti a vincere niente. Bugia, perché nel 94 i bambini stanno diventando grandi adesso, e quindi gli Stati Uniti sono diventati una nazione seria anche dal punto di vista federale e anche dal punto di vista della squadra che hanno in campo. Poi verrò smentito e verranno cacciati agli ottavi, ma questo è modo di lavorare, non avviare avviare. Ma quando la avvii una riflessione, allora non lo so, trovo tutto, se non è già partita da tempo, tutto molto vecchio. Sì, molto vecchio, molto vecchio, molto frusto, come era vecchio Lippi d'altra parte, no? Perché quando Abete ha deciso che Donadoni non era il suo uomo, non ha guardato avanti, ha guardato indietro e adesso l'ha pagata cara lui, l'ha pagata cara Lippi, l'ha pagata cara l'Italia e l'abbiamo pagata cara tutti insieme. A presto, caro Fabio. Grazie, direi a domani. Buona giornata. E adesso torniamo in compagnia degli amici ascoltatori, secondo le buone abitudini. Vorrei fare una breve premessa firmata Alessandro Costacurta, che è un altro dei collaboratori del Sole 24 Ore per questo mondiale. Perché? Ma perché insomma adesso il futuro, per carità, è quello che incuriosisce di più ed è giusto guardare avanti, però in fondo non sono passate poi così tante ore da quella partita e dato che ho letto giudizi anche sì, abbastanza univoci nel senso della critica severa, però ho letto anche opinioni molto molto molto opinabili. Allora, per esempio, Costacurta, che qualche partita l'ha giocata in vita sua e anche a un livello accettabile, scrive per esempio, a differenza di tanti altri giornali che ho letto stamane, dando delle responsabilità precise. Sul primo gol sbagliano, al di là del retropassaggio di De Rossi, scrive Billy, Chiellini e Criscito, che si allontanano anziché coprire la linea e restare in posizione. Sul secondo sbaglia Chiellini, che dovrebbe occuparsi dell'avversario e non del pallone. Sul terzo pecca di eccessiva foga Cannavaro, troppo aggressivo, lascia spazio all'avversario e la frittata è fatta. E poi aggiunge, su nessuno dei 3 gol ascrivo invece particolari colpi a Marchetti. E io su questo sono completamente d'accordo con Costacurta, perché ho visto viaggiare dei 4 e dei 3 a Marchetti veramente tirati col pressapochismo di chi dice questo ha preso 3 gol e allora merita 3 o 4 in pagella. Marchetti secondo me non può fare nulla sul primo gol, non può fare nulla sul secondo perché l'anticipo deve essere quello di Chiellini, non certamente il suo. Può far forse meglio sul terzo, toglierei il forse, perché sul terzo se non si tuffa rimane in piedi e soprattutto fa 2 passi avanti a prima quel terzo gol non arriva. Ma insomma ho visto dei voti uguali tra Marchetti e quasi tutti gli altri. Mi sembra che qualche distinguo ci potesse stare. Renato, provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buona trasmissione a tutti. Una domanda, penso a bruciapelo, a prescindere che i problemi sono ben altri, non quelli dell'eliminazione dell'Italia. Sì. Volevo dire, noi adesso, con tutto rispetto parlando, cosa ce ne facciamo delle assunzioni di responsabilità del signor Abete e del signor Lippi? Ma questo è un tema che ricorre abbastanza spesso in messaggi, in sms, in mail, eccetera, eccetera. Sì, sul piano pratico assumersi le proprie responsabilità ha un significato relativo, ma noi siamo abituati anche a presidenti però che di fronte a disastri ben peggiori e in materie molto più, come dire, più coinvolgenti, le responsabilità non se le assumono mai e le scaricano sempre su qualcun altro. Io trovo che già questo almeno sia, se non altro, decoroso. Marco, provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno Garanzini, a lei e a tutti gli ascoltatori. No, niente, io volevo intervenire su un fatto, no, che ormai è andata così, quindi mettiamo tutto in cantina e fine. E pensare alla fortuna che ha Prandelli, che prende in mano una nazionale che peggio di così non può fare, mentre Donadoni aveva dei campioni del mondo e quindi doveva, se non riconfermarsi però, giocare a certi livelli. Prandelli parte veramente da terra, quindi può solo andare in su. Cosa ne pensa lei? E poi penso, le parole di Cannavaro. Penso, Marco, che lei abbia perfettamente ragione. Prandelli, Prandelli è stato duramente segnato da un pessimo destino nella sua vita, no? se pensiamo a sua moglie Emanuela. Direi che dal punto di vista calcistico stavolta Prandelli è fortunato e quindi, se non altro, professionalmente la vita gli restituisce qualcosa di quello che gli ha tolto con tanta crudeltà, perché lei ha centrato esattamente il problema. È molto più facile succedere e rifondare da un disastro che non succedere a un vincente come era toccato al povero Donato. Tra l'altro, ne approfitto per il dettaglio, stamane Abete ha annunciato che Prandelli sarà insediato, cioè presentato e quindi insediato ufficialmente dal prossimo 1 luglio, quindi dalla prossima settimana, e ha anche aggiunto: Prandelli preoccupato, no, è un uomo di calcio, ha detto ancora Abete, conosce i giocatori del calcio italiano e sa benissimo qual è la situazione. Subito dopo la presentazione di Prandelli, e cioè all'indomani, il 2 luglio, è già stato convocato un Consiglio federale per affrontare la crisi del calcio italiano dopo questa eliminazione precoce. Antonino dalla Spezia, buongiorno. Pronto, buongiorno signor Garanzini, buongiorno ai suoi ascoltatori. Sì. Io trovo veramente stucchevoli queste scuse, queste prese di posizione di Lippi e di Abete. Sono prese di responsabilità che mi sanno di farsa. Perché Lippi, l'unica frase che non gli ho sentito dire, perché ha detto di tutto, l'unica frase che avrebbe dovuto dire è la seguente, cioè che forse ha sbagliato le scelte, che forse il campionato italiano andava fatto una disamina migliore. Forse Antonino, qualcuno... mi scusi, ma perché uno deve dire, adesso io non, lungi dal difendere Lippi, per l'amor di Dio, ma mi dice perché uno dovrebbe dire delle cose che non pensa? Ma infatti il problema di Lippi è proprio la grande presunzione. Ma quale è la grande presunzione? Ma semmai sarà i grandi errori che ha fatto. Ma secondo lei, uno che fa il commissario tecnico di mestiere, le scelte le fa in buona o in cattiva fede? Guardi, io su questo ho i miei dubbi, perché a me sembrano scelte molto personali. Perché Cassano, dico, ora non è che voglio difendere Cassano o Balotelli, però mi pare che proprio per scelta personale non li abbia presi. E ce ne sono tanti altri che lui ha considerato non fenomeni. Però non facciamo, cioè proviamo a distinguere i discorsi. Se lei mi dice che Lippi ha sbagliato delle scelte, io sono perfettamente d'accordo con lei. Se lei mi dice che oggi Lippi non dovrebbe assumersi la responsabilità perché sennò lei si arrabbia, io voglio dire, allora che deve fare Lippi? Deve dare ragione a lei? Sono stato un cretino perché non ho preso Balotelli e Cassano. Lui è convinto tuttora che con Balotelli e Cassano non cambiava niente. Ora, questo da un lato è ancora più grave, perché non l'ha ancora capito dopo. Chissà se ha capito adesso che facendo giocare prima Quagliarella, che era l'unico simil Balotelli di tutto l'attacco italiano, invece di infliggerci Girardino e Iaquinta tutta la vita, forse le cose sarebbero cambiate prima. Però questi sono errori di valutazione. Lui se ne assume la responsabilità, ha anche chiesto scusa, ha detto che è tremendamente mortificato per tutti, di fronte a tutti, anche e soprattutto di fronte ai tifosi. Ma non può dire ho sbagliato perché avrei dovuto prendere quelli, perché sennò l'avrebbe fatto prima, era convinto, io credo. me sono scelte personali. In ogni caso, su Abete, quando Abete dice non rinnego la scelta di Lippi, anche qui dico, forse avrebbe dovuto dire, come dicevate poco fa voi, che forse nel 2008, quando Donadoni si è dimesso, forse avrebbe dovuto scegliere qualcos'altro. Quella è una vera assunzione di responsabilità. Dire anche lì forse ho sbagliato le scelte, però lei giustamente interpreta bene dicendo che non se ne sono ancora resi conto, ed è questo la cosa. È un po' tutto, però è che noi non, ripeto, in un paese in cui le colpe non se le assume mai nessuno, questi le loro colpe se le assumono comunque dicendo me ne assumo la responsabilità. Poi è vero che è una formula un po' astratta, sono d'accordo, però non lo trovo così poco tutto sommato. Poi vediamo quali saranno i passi successivi. Andrea, Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Due velocissimi interventi. Il primo è chiaramente una provocazione. Mi riferisco all'enorme danno che io penso abbia causato Paolo Rossi nei mondiali dell'82, esplodendo nella seconda parte del mondiale, dal momento che ho come l'impressione che da allora ogni selezionatore si abbia fatto proprio il diritto di insistere su scelte abbastanza peculiari, aspettando poi un'esplosione nella seconda parte, che anche in questo mondiale purtroppo non c'è stata. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati, a mio parere, troppo rivalutato Donadoni insistendo su Toni agli ultimi europei, e poi questo Gilardino inguardabile quando, come ha detto bene lei ieri sera, forse sì, Lippi non era il caso che schierasse Quagliarella, visto quello che poi è stato capace di fare. Certo Andrea, però io le farei notare una non piccola differenza, che è questa: il Gilardino del 2006 aveva fatto il suo golletto d'ordinanza come tutti gli altri attaccanti, e non di più. Paolo Rossi era reduce da 2 anni di squalifica ai mondiali dell'82, quindi ci voleva tutta la tenacia, la fiducia, anche un pizzico di incoscienza di Bearzot per insistere su di lui. Però Paolo Rossi veniva dal mondiale d'Argentina, e nel mondiale d'Argentina ha fatto qualcosina di più di Gilardino, anche dal punto di vista tecnico e della profondità e della classe della manovra. E quindi quello era un tipo di insistenza che aveva che era leggermente più legittimato di questo. Dopodiché sì, si va ogni tanto, magari anche per indirettamente può essere stato un danno alle generazioni future. Massimo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Premesso che a me Lippi non è mai stato simpaticissimo, ma poi vabbè, sul valore del tecnico credo non ci sia poco da discutere. Volevo dire che da ieri mi è diventato un pelino più simpatico, nel senso che forse non tutti ricordano come si erano andati l'anno scorso a vincere, 4 anni fa a vincere il campionato mondiale, nel senso che ci furono alcune partite vinte in maniera piuttosto rocambolesca. Io ricordo, certo, contro l'Australia, contro gli Stati Uniti. Voglio dire che probabilmente non eravamo il Brasile di Vavà e Garrincha 4 anni fa, e non siamo così scarsi adesso, come Lippi poi del resto non è un imbecille adesso e probabilmente non era un fenomeno 4 anni fa. Sì, Massimo, infatti tutto andrebbe preso con un pochino più di senso della misura. Ho letto quella prima mail di oggi firmata Alessandro Meiattini, l'ho già messa da parte tra le cose intelligenti che mi piace conservare, che arrivano e che sono abbastanza numerose, soprattutto in queste circostanze. Quando lui dice, questo ascoltatore, mi dava fastidio sentire chiamare eroi prima i giocatori di Berlino, e mi dà fastidio sentire oggi vergogna, perché le vergogne sono altre. In fondo questi qua hanno la loro partita ieri, se la sono sudata. I francesi dicono mouiller le maillot, bagnare la maglia, no? Cioè, mi pare che la maglia l'abbiamo bagnata di lacrime alla fine, ma di tutto il sudore possibile prima. Se la botte ha dato quel vino ieri, oggi ieri mi pare comunque che non possa essere imputato a scarsa volontà. E quando uno o a non metterci tutto quello che avevano, se avevano solo quello da dare, la parola vergogna mi sembra un po' eccessiva. Se in vergogna invece prendiamo tutto il movimento complessivo, compreso il ripescaggio di Lippi, gli atteggiamenti successivi, il modo un po' disinvolto in cui il CT di ritorno ha interpretato il suo mandato, cercando innanzitutto una sistemazione post mondiale alla Juventus, eccetera, e poi costruendo una Juventus a sua immagine e somiglianza, che poi sappiamo com'è andata, e a quel punto la federazione finalmente ha aperto gli occhi, non per un problema etico di no, che pure mi sembrava forse abbastanza sotto gli occhi, ma semplicemente per un problema di risultati che coinvolgeva la nazionale, allora sì, allora possiamo secondo me cominciare a usare la parola anche vergogna. Questo perlomeno è la mia opinione. Visto che la cronaca è così amara, proviamo a ripassare la storia. Il 25 giugno nell'archivio di Nicola Filippone. Sembra ieri. 25 giugno 1978. Cronaca di un trionfo annunciato. Al Monumental di Buenos Aires, l'Argentina di Menotti fa suo il mondiale davanti agli occhi compiaciuti della giunta militare guidata da Videla, che da 2 anni esercitava sul paese una sanguinosa dittatura. Sulla strada per il trionfo c'è però un ostacolo scomodo, l'Olanda, molto competitiva anche senza Cruyff. E infatti l'albiceleste riesce a imporsi solo ai supplementari, dopo che Nanninga, all'81esimo, aveva annullato il vantaggio iniziale firmato dal capocannoniere Kempes. Le reti che piegano definitivamente l'Olanda sono del solito Kempes al minuto 105 e di Bertoni al 115esimo. La finale del 1978 è anche la prima arbitrata da un italiano, Sergio Gonella. Succederà di nuovo nel 2002, quando Collina sarà designato per Brasile e Germania. Sì, con questa non sottile differenza, perché in questa ho memoria abbastanza buona, che la direzione di Collina nel 2002 fu esemplare, la direzione del 78 di Gonella fu in linea con i tempi, diciamo, e col fatto che doveva vincere l'Argentina. C'era ieri sulla Gazzetta dello Sport una breve ma bella intervista, bella in assoluto, ma bella perché il personaggio è grandioso, a Ruud Krol, ex grande giocatore di quell'Olanda e poi del Napoli dall'80 all'84. Oggi Krol fa l'allenatore a Soweto e Stefano Boldrini della Gazzetta gli ha ricordato che in quel Argentina-Olanda all'89esimo, e lo ricordo bene anche perché avevo Rensenbrink capocannoniere e non lo diventò proprio a causa di quel palo, Rensenbrink complì un palo che avrebbe evidentemente dato con qualche centimetro più in là la vittoria all'Olanda. E poi ai supplementari, come ha ricordato Filippone, vinse l'Argentina. E a questo ricordo Krol risponde così: se Rensenbrink avesse fatto gol, la storia dell'Argentina sarebbe cambiata, perché noi olandesi avevamo già deciso, se avessimo vinto, di non ricevere la Coppa da Videla. Nessuno di noi avrebbe accettato da lui la Coppa, né gli avrebbe stretto la mano. E un gesto simile sarebbe stato uno schiaffo alla dittatura di fronte al mondo. Io ricordo che 22 anni fa feci una mezza malattia per quella sconfitta dell'Olanda, non sapevo di questo particolare che è inedito e a distanza di 22 anni mi ha fatto male, perché sarebbe stato davvero, ripensando allo schifo di quell'edizione, di quella coppa, sarebbe stato un gesto veramente memorabile, paragonabile come impatto sulla storia a quello del 68 del podio di Città del Messico. Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Granfini. Dica. Fra le tante cause di questo flop mondiale si è parlato, fra le più ricorrenti, quella della mancata valorizzazione dei giovani o della scarsa valorizzazione dei giovani nel campionato italiano e da parte delle squadre italiane. Io volevo portare il mio contributo personale, nel senso che mio figlio, classe 92, gioca in uno di quei club che sono sempre riconosciuti come tra i migliori vivai d'Italia, e tra una settimana purtroppo si trasferirà in Inghilterra a giocare lì. Questo perché? Perché lui, come tanti altri ragazzi della mandata del 92, che tra l'altro tecnicamente è un'ottima mandata, hanno scarsa possibilità di giocare in Italia. Devono giocare in primavera, 2-3 anni, poi nella migliore delle ipotesi vengono buttati in Lega Pro, in Serie D, con la speranza poi di riuscire a trovare lo spazio, no? All'interno di questi campionati molto competitivi, molto agonistici, e molti si perdono per strada. Certo. Mentre in Inghilterra un ragazzo del 92, ce ne sono esempi nell'Arsenal, in tante squadre, vengono buttate subito nella mischia. Ha ragione Alessandro, questo mi scusi se sfumo perché ci sono molti altri in attesa, ma questo è un intervento interessante e questo è uno dei problemi che andranno seriamente affrontati. 32 anni, non 22 da 78, mi corregge un ascoltatore e mi ricorda che il tempo passa, già, altro che se passa. Benedetto da Vercelli, buongiorno. Buongiorno dottor Granzini. Dica. Sottoscrivo in pieno l'intervento precedente. Io non sono affatto stupito di quello che è successo alla nazionale e non capisco questo livore nei confronti di Lippi. Mi pare che mai come in questo caso la nazionale sia lo specchio del paese, dove non c'è coraggio di puntare sui giovani, dove se hai un comportamento leggermente difforme dal gruppo sei fuori dal gruppo, se salti l'uomo sei un aggressivo, se cerchi di avere successo ti guardano con sospetto. E poi ci sorprende se mancano i fenomeni, ma i fenomeni non nascono sotto i cavoli, si cercano, si fanno giocare, si gioca la faccia. Dire che i fenomeni si cerchino, no, io su questo non sono d'accordo, i fenomeni per me nascono davvero sotto i cavoli, i fenomeni, poi però ci sono dei sottofenomeni, o comunque ci sono delle sottocategorie rispetto al fenomeno che si possono andare a cercare, che si possono allevare, crescere, migliorare, incentivare. Il fenomeno vero, escludo che lo si possa allevare, ma questi sono dettagli, sono quisquiglie, tutti stiamo in realtà dicendo la stessa cosa con sfumature diverse. Rodolfo, Venezia, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, io volevo fargli i complimenti per le sue trasmissioni, però oggi non sono tanto d'accordo. Non sono tanto DAC, è sul più bello che non è d'accordo, salta la linea, sembra che abbia tirato giù io, vediamo se lo ripeschiamo. Dica allora, perché non è d'accordo? Ma lo trovo, perché quando uno dice ha preso le sue responsabilità, si è assunto le sue responsabilità, ma cosa vuol dire assumersi le proprie responsabilità? Io credo che una frase di questo genere avrebbe un significato se lui aveva ancora 2 anni di contratto, 4 anni di contratto e dava le dimissioni. Allora uno dice mi assumo la responsabilità, do le dimissioni e dimostra, diciamo, la propria buona fede. Ciao, va bene, ma mi dica una roba, cosa fa allora? Si mette la pietra al collo e si butta in laguna? No, sta zitto, basta, che è più semplice. Dice, guarda, mi dispiace per i tifosi e fide lì. Quando uno si assume responsabilità deve dare un segno di questa assunzione di responsabilità, se no sono parole al vento, basta. Cioè è una presa per i fondelli anche nei confronti degli altri. No, io questo lo escluderei anche perché poi le parole sono sempre accompagnate da sguardi e da atteggiamenti. Io ieri ho visto 2 volte... Ho sentito il tono, ho visto lo sguardo, non era assolutamente alla presa per i fondelli e anzi trovo abbastanza disgustoso che qualcuno lo interpreti così. Se parliamo di sostanza, poi ne ho lette di tanti colori che quando si fallisce bisognerebbe restituire, bisognerebbe non farsi pagare, bisognerebbe... Ma io credo che da che sport è sport, uno vince e un altro perde, se si gioca in 2 oppure se si gioca in tanti, come in questo caso, in 31 perdono e uno vince. Cosa facciamo? Gli altri 31 gli facciamo rimetterli i quattrini? Io cercherei di... Ogni tanto proverei a essere un po' meno ridicoli e demagoghi di quello che invece siamo come paese. Gianni Padova, ce la fai in 20 secondi? Sì, ce la faccio, dottor Garanzini. Dunque, stia attento, a proposito delle responsabilità di Lippi. Io, per carità, 4 anni fa è stato coperto d'oro. Io volevo che oltre alle responsabilità lui avesse detto ho sbagliato tutto, non voglio neanche un euro. Ha visto che avevo anticipato, io non sapevo cosa avrebbe detto Gianni, ma avevo anticipato, l'ha sentito di frequente questo, immagino, no? Nel mondo della politica, dell'industria, dell'imprenditoria in genere, l'ha sentito spesso questo modello, forse le sarà venuto da questo, no? L'idea che nel calcio invece bisognerebbe comportarsi così. Grazie a Filippo Aureggi in redazione, grazie a Giorgio De Luca in regia, grazie a Giorgio De Luca in redazione, buon pomeriggio a tutti. A tempo di sport.